e temi il Signore non incontrerà il male, ma dopo la prova sarà liberato. L'uomo saggio non odia la legge, ma chi finge con essa è come mari in tempesta. L'uomo ragionevole confida nella parola, accoglie la legge come responso degli Urim. Prepara la tua parola perché sia ascoltata, ripensa alla tua istruzione e poi rispondi. Ruota di carro i sentimenti dello stolto, ed asse che gira è il suo pensiero. L'amico derisore è come uno stallone che nitrisce sotto chiunque lo cavalca. Perché un giorno è superiore ad un altro, pur se la loro luce viene dal sole? Sono stati distinti dalla mente del Signore, che ha diversificato stagioni e feste. Alcuni giorni ha scelto per santificarli, gli altri li destina solo a far numero. Anche gli uomini vengono tutti dal fango, e Adamo fu creato dalla terra. Ma il Signore li ha distinti con grande sapienza e ha diversificato le loro vie. Alcuni li ha benedetti ed elevati, alcuni li ha santificati e avvicinati a sé, altri li ha maledetti ed umiliati, li ha rovesciati dalla loro posizione. Com'è la creta nelle mani del vasaio, che può plasmarla a suo piacimento, così sono gli uomini in mano al loro fattore, che dà a ciascuno secondo la sua decisione. Davanti al male c'è il bene, e davanti alla morte la vita. Così davanti all'uomo pio c'è il peccatore. Guarda così a tutte le opere dell'Altissimo, due a due, l'una davanti all'altra. Io sono venuto per ultimo, come chi racimola dopo la vendemmia. Ho fatto presto con la benedizione del Signore e ho riempito il tino come chi vendemmia. Vedete che non ho faticato per me solo, ma per tutti quelli che cercano l'istruzione. Ascoltatemi, o grandi del popolo, e quanti dirigete l'assemblea, udite. Al figlio e alla moglie, al fratello e all'amico, non dar potere su di te finché vivi. Non dare ad altri i tuoi averi, perché se cambi idea non debba richiederli. Finché vivi e c'è in te respiro, non cedere i tuoi averi a nessuno. È meglio infatti che i figli chiedano a te che non esser tu ad attendere dalle loro mani. In tutte le opere mantieni la superiorità, non esporre al biasimo la tua dignità. Quando finiranno i giorni della vita, solo al momento della morte fa il testamento. Fieno, bastone e carichi per l'asino, pane, disciplina e lavoro per lo schiavo. Se lo fai lavorare con rigore, starai in pace. Se risparmi le sue mani, cercherà la libertà. Giogo e bardatura piegano il collo, corde e torture lo schiavo svogliato. Mandalo a lavorare perché non resti ozioso. L'ozio infatti insegna molti disordini. Mettilo a lavorare perché questo è il suo dovere. Se non obbedisce, opprimilo con i ceppi. Ma non esagerare con nessun uomo e non far nulla contro il diritto. Se hai uno schiavo, sia come te, perché l'hai comprato a prezzo di sangue. Se hai uno schiavo, trattalo da fratello, perché ti necessita come la tua vita. Se maltrattato, fugge e t'abbandona, in quale via lo cercherai?